Sì, perché questa domenica è previsto un diluvio e il parco inzuppato non funziona. Quindi sarà sabato, non domenica prossima, ma sabato 11 maggio, sempre nel Parco Pasolini, sempre lo stesso orario e più o meno la stessa gente, stessi artisti. Però avete mantenuto qualcosina in programma anche per questa domenica? Sì, come noi abbiamo qua i nostri partner europei, sia di Parigi, dell'associazione La Fabrique des Impossibles, poi arriveranno anche quelli del Festival della Zuppa di Lille, quelli di Roma, e poi abbiamo anche un gruppo di argentino in casa, diciamo, e quindi facciamo un mini Zuppen Context International. Che sarà al coperto e coperto nella nostra sede operativa che si chiama Camera d'Aria, che è in via Guelfa 40 para 4, zona Masarenti. E nel frattempo, per tutto questo periodo, anche per finanziare il festival, è partito un crowdfunding, ma sono partite anche, diciamo, la produzione, come anche ogni anno, di gadget che sarà possibile acquistare. Quindi per chi non lo ha già fatto, com'è possibile sostenere il festival? Infatti la campagna di crowdfunding si è terminata, avrebbe potuto andare meglio, devo dire, che si chiamava Support the Soup, perché senza il fuoco, senza la scintilla, no, che accende il fuoco, la zuppa non si fa. E si fa adesso lo stesso, facciamo con quello che c'è, però potete ancora contribuire comprando le nostre ciotole, i nostri grembiuli, le nostre magliette, tutte serigrafate da noi, homemade. Tra l'altro, appunto, la zuppa non si fa, diciamo, quest'anno torna al Festival della Zuppa dopo un anno di stop. Da cosa era stato causato quest'anno di stop e ci sono stati effettivamente dei cambiamenti di cui c'era bisogno per farla ripartire? Sì, noi eravamo molto fiduciosi di avere un sostegno del Comune di Bologna. Il quartiere, come sempre, ci sostiene con quello che può e ringraziamo. Il Comune ci aveva fatto delle promesse l'anno scorso, però a volte capita che le promesse non vengono mantenute e siamo in questa situazione. Però intanto ci siamo inzuppati, abbiamo cominciato a ballare e allora balliamo fino in fondo e la facciamo, la zuppa. E appunto, venendo a temi più felici, diciamo, quindi si farà la zuppa, si farà il festival, sarà sabato 11, abbiamo già detto, un po' di programma, un po' di cosa aspettarsi. Passo a Vincenzo. Allora, ci saranno diverse, diciamo che ci saranno le due strade principali ai bordi delle quali ci saranno appunto tutte, diciamo, le zuppe che potranno essere, diciamo, assaggiate. Contestualmente, diciamo, alle zuppe ci saranno diversi, diciamo, artisti di strada che sono fondamentalmente, diciamo, locali e quindi che animeranno un po' la situazione. Allo stesso tempo nel parco delle performance di circo, di tessuti e di giocoleria. E poi, diciamo, per concludere sul palco centrale, ci saranno due concerti dopo la premiazione che sono di Bebot, che è un gruppo, diciamo, reggae, sempre, diciamo, di Bologna, e Terza Classe, che è sempre un gruppo di Bologna, che sono anni, diciamo, che partecipano al festival e quindi noi li ringraziamo infinitamente. E si è parlato, diciamo, in riferimento anche alla necessità di raccogliere fondi, anche di quello che è lo spirito del Festival della Zuppa, quindi intanto non a pagamento, l'ingresso gratuito, ma anche non spinto direttamente per il consumo, non una festa del consumo e anche una festa ecologica. Insomma, tanti, tanti gli spunti che sono stati lanciati, come poi effettivamente sono messi in pratica. Praticamente noi abbiamo mutuato questo festival dalla Francia, di un quartiere a Lille che si chiama Oisem, che era un quartiere che è finora un quartiere multi-interculturale, dove come è nato questo festival? È nato perché c'erano delle frizioni tra le persone che vivevano in questo quartiere e allora si è pensato: che cosa abbiamo in comune tutti? In comune tutti abbiamo una zuppa, è qualcosa che abbiamo in comune. E che cosa magari abbiamo in comune anche che possiamo tutti fare? Possiamo donare qualcosa di noi all'altro. E questo concetto della gratuità e del dono e della convivialità, che supera in questo caso anche tutte le conflittualità, praticamente si è poi versato in una carta della zuppa che esisteva. Sono stati praticamente, perché è una rete europea che è molto più vasta di quello che sembra. Ci sono zuppe in Spagna, cioè una volta avevamo fatto anche progetti europei con Barcellona, con Berlino, con Lille, adesso un mini progetto anche con Parigi, perché la zuppa veicola in effetti dei valori. Allora sono dei valori che magari nella nostra società consumistica non sono molto, come dire, en vogue o sono dimenticati poco a poco, perché tutto va sul consumo, cioè lo sai anche te, dove vai, paga, fai, comprami questo, fai questo, cioè è tutto basato praticamente sulla cultura deve rendere, no? Ci deve essere un'entrata. Allora, però la cultura, come prima diceva anche Pauline, del progetto Le droit de la culture, forse anche questo, che non, la cultura non la devi comprare sempre, la cultura la devi creare e devi avere la possibilità a te, come associazione, come individuo, come realtà, come cittadino, cittadina, di creare cultura che non è cultura del consumo. Quella la conosciamo e quella forse ci porta anche ad un ambiente che poi ti autoseppellisce. Alcuni esempi anche pratici poi in questo senso, come ogni anno si chiederà a tutti i partecipanti, le partecipanti, di portarsi cucchiai e ciotola da casa, ma oltre a questo avete abolito anche tutte le plastiche per quest'anno. In fondo è da sempre che noi cerchiamo di non produrre plastica e quindi fin dall'inizio la Zuppa ha lanciato e poi, e questa è una bella cosa, è stato imitato da molte altre realtà. Poi abbiamo visto molte altre iniziative dove c'è quello che noi abbiamo lanciato tanti anni fa, porta il tuo cucchiaio, porta il tuo piatto, porta la tua ciotola, che è stato ripreso anche da altri e diventato anche, diciamo, un uso comune, diciamo, in certi ambienti. Adesso però, visto che Greta Thompson e company ha lanciato il tema dell'ambiente in maniera molto forte, allora anche quest'anno Hera ci ha in qualche modo detto tra qualche anno ai festival sarà imposto di non produrre plastica, che è positivo, e quindi anche i birrai che vengono a noi artigianali a vendere la birra devono avere bicchieri Mater P, nel senso compostabili, che vanno nell'organico, e quindi in questo senso, e questo è uno sviluppo che in altri paesi europei già esiste, che tu non puoi fare un festival se produci plastica, se no ci sono anche le multe, e in questo caso secondo me va bene così, e quindi cerchiamo di farlo zero plastica in quanto possibile, naturalmente anche quest'anno. Quindi anche no bottigliette d'acqua e no, invece punti d'acqua, e poi l'invito a chi può, visto che poi il pilastro non è così lontano, di arrivare con i mezzi o con le bici. Con i mezzi pubblici e con le biciclette, carri, tutto quello che volete. Cavalli! Sì, esatto. E invece parlando di questo nuovo festival che è nato anche a Parigi, se ho capito bene la seconda edizione, quindi vi chiederei un po' di raccontarci anche come nasce questa esperienza e dove nasce a Parigi. Je vais parler en français et Julie va traduire, mais donc comme on avait dit tout à l'heure aussi, la Fabrique des Impossibles, l'association, elle a été créée en 2010 et elle s'est vraiment inspirée de plusieurs projets européens, dont le projet de la Oltre. Attends, alors. La Fabrique des Impossibles, l'associazione francese, ha creato in 2010 e si hanno ispirati associazioni belgica e di Bologna l'altre. Et on partage vraiment les valeurs de la Oltre, qui sont tout ce que disait Lydia avant sur la culture comme un moyen de partage, de lien social, et que c'est pas quelque chose que tu consommes, mais plutôt quelque chose qui crée des choses. Condividere anche le stesse valori delle altre, che sono meglio apportare la convivenza e lienzo sociale, non è facile, legamento sociale, meglio più che la consumazione. Voilà. E du coup l'objectif c'était de s'inspirer pareil des initiatives déjà présentes en Europe, notamment la fête de la soupe de Lille et celle de Bologne, pour faire une édition locale à Saint-Ouen, là où on travaille. L'obiettivo era quindi di ispirarci delle esperienze di Bologna e di Lille, che è anche una città nel nord di Francia. E di fare una propria fête de la soupe. E di fare la nostra festa della zuppa a Saint-Ouen, che è una periferia di Parigi. Avec les mêmes enjeux de faire un événement gratuit, que les soupes soient données, que ce soit un espace public et du coup qu'il y ait un vrai propos écologique aussi. Anche con gli stessi obiettivi, che sono la gratuità, l'ecologia senza plastiche e con la nozione di evitare il plastico e tutta la polluzione che può necessitare questo tipo di evento, la gratuità, l'espazio, e farle nell'espazio pubblico che sia aperto per tutti. E Et la première édition, ça avait lieu au jardin de Guinaud, qui est un jardin partagé. La prima edizione ha avuto, si è fatto nel giardino condiviso, che era il giardino, le jardin de Guinaud, che ora non esiste, ma che è esistito 5 anni. E cette année, ce sera sur une place. E questo anno sarà in una piazza. Sì, a Saint-Denis. A Saint-Denis, che è una città cerca di Saint-Ouen. Periferia di Parigi, periferia popolare di Parigi. Et en plus de ça, cette année, on a voulu, en plus de juste l'événement, mettre en place des ateliers avant. Prima dell'evento, proprio, hanno deciso di organizzare atelier. Workshop, laboratorio. Workshop, workshop. Prima dell'evento. Donc surtout des ateliers en rapport, par exemple, avec la lutte contre le gaspillage alimentaire. Per esempio, hanno fatto un evento per luttare contro il gaspillage alimentaire, food waste. Ok, per lottare contro lo spreco alimentare, mi inserisco in questa traduzione, ha moltissime lingue, è molto bella comunque. On a aussi fait des ateliers de customisation de bols, où on a récupéré des bols d'habitants qui nous ont donné des bols, et on les a décorés avec les habitants lors d'ateliers. Hanno anche fatto customizzazione di... Les bols. Di ciotole. Di ciotole con gli abitanti che hanno decorato... Questo per non usare plastico durante l'evento. E on a aussi fait voilà des ateliers sous participatives avec les habitants dans divers lieux dans un marché dans le 18e qui s'appelle la Bonne Tambouille, mais aussi dans un centre social dans le 18e aussi qui s'appelle le NS Torcy. Et là, avec un groupe de femmes. Ouais, plus autour de la cuisine un moyen d'échange et de rencontres et de partage de traditions culinaires et de découvertes. Anche hanno fatto due workshop, uno in una piazza del mercato, un mercato nel Parigi. È un quartiere anche popolare che si chiama La Bonne Tambouille e anche un evento di fabbricazione di zuppa con gli abitanti del centro sociale di Torcy. Era un momento anche perché pensano che la cucina è un veicolo e una possibilità di farci incontrare gente e di comunicare meglio e di portare questi valori. E ritorniamo solo ancora un attimo all'organizzazione invece bolognese, in particolare a proposito proprio anche di incontri, diverse culture, diciamo un tema che si è sollevato quest'anno, perché poi cambia ogni anno la data, è quello del fatto che quest'anno il Festival Internazionale della Zuppa coinciderà ora non più con il primo giorno di Ramadan, ma comunque con il periodo di Ramadan, e quindi avete pensato anche delle iniziative in questo senso? Abbiamo fatto una iniziativa molto bella precedentemente, che era praticamente un micro evento della zuppa insieme con i bambini e i genitori, gli adulti del corso di arabo organizzato dall'associazione Al Gofran da molti anni nelle scuole romagnoli del Bilastro, e abbiamo però con marionette, con musica, praticamente abbiamo fatto una mini paratina dalla scuola alla fattoria urbana, dove poi veramente ringrazio anche tante persone marocchine, tunisine, hanno fatto delle zuppe loro, e quindi abbiamo già fatto un pre-evento zuppa con loro fuori Ramadan, che noi abbiamo gustato tutte le loro zuppe, perché non esiste solo la harira, ho imparato, esistono anche tante altre zuppe buone che noi diciamo, la zuppa di fave per esempio è fantastica. E quindi è stato molto partecipato, poi c'è stato anche un concerto dell'Ian Clough, musica cubana, un gran mix, diciamo è stato veramente un gran mix di culture e di convivialità molto bello. Perfetto, io vi ringrazio tutte, chiedo solo di rilanciare l'evento, quindi gli appuntamenti, gli orari, sia per Bologna al Pilastro, ma anche poi per il prossimo incontro a Parigi. Volentieri. Allora, a Bologna il Festival della Zuppa adesso sarà 11 maggio con il sole nel Parco Pasolini a partire dalle ore 15. Invece a Parigi il Festival della Zuppa sarà 25 di maggio. 25 maggio. Di maggio. Maggio. Questa domenica? E questa domenica 5 maggio un piccolo evento per stare al caldo, viste le previsioni, a Camere d'Aria. Con un paio, con 4-5 zuppe in contest. Internazionali. Internazionali.